Un buon pomeriggio a Ilaria Faranda dell'associazione WILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Benvenuta ai microfoni di Radio Città Fucico. Grazie, buongiorno. Allora, siamo qui per parlare insieme ad Ilaria di accessibilità degli ingressi nei luoghi aperti al pubblico. Quando parliamo di accessibilità, che cosa si intende, Ilaria? Allora, chiaramente accessibilità vuol dire tante cose, vuol dire possibilità per persone che hanno disabilità di molti tipi diversi, di fruire di un certo servizio, di un certo ambiente, su base di eguaglianza con gli altri, quindi con lo stesso livello di qualità nella fruizione dell'esperienza. E se poi andiamo nel dettaglio di questo, insomma, progetto di cui parleremo, noi ci siamo focalizzati su un aspetto dell'accessibilità che in sé ha tante dimensioni, e cioè l'accessibilità per persone in carrozzina e in particolare con attenzione al primo ostacolo che di solito si incontra, quindi proprio quello all'ingresso dei luoghi aperti al pubblico, dei negozi, dei ristoranti, cioè il gradino, il tipico gradino che c'è quasi ovunque e che impedisce di entrare a chi è in carrozzina. Infatti, come stavi proprio citando tu adesso, avete presentato un progetto al Comune di Bologna che si chiama Progetto Rampe. Ce l'hai accennato, ma ci puoi raccontare in cosa consiste? Sì, allora, l'idea del progetto parte dall'osservazione che la stragrande maggioranza dei luoghi aperti al pubblico a Bologna, quindi appunto negozi, bar, ristoranti, locali, luoghi della cultura, hanno almeno un gradino all'ingresso, un ostacolo relativamente piccolo, ma che in realtà significa che se ci mettiamo dal punto di vista di una persona in carrozzina e pensiamo ai servizi fruibili in città, beh, possiamo immaginarci una città piena di saracinesche abbassate, piena di negozi chiusi. Se ci immaginassimo che tutti i luoghi che hanno un gradino, no? Non, in qualche modo non esistono per una persona in carrozzina, come se non ci fossero. Allora, immaginandoci da questo punto di vista la nostra città, ecco, la vedremmo veramente ben poco accessibile. Le esperienze che possiamo fare noi, insomma, anch'io sono in carrozzina, risultano molto limitate da questo. Io, banalmente, se devo organizzarmi per andare a fare un aperitivo con gli amici, c'è prima la fase di capire dove puoi andare. Se mi invitano ad una festa da qualche parte, probabilmente dirò non ci posso andare perché in quel locale lì c'è quel maledetto gradino. Quindi questa è l'osservazione di partenza, e sulla base di questo abbiamo un po' riflettuto su come affrontare il problema. Ora, è esperienza non solo mia, insomma, ma di tante persone che si confrontano con questo problema, che quando si va a sollevare la problematica con, so, il negoziante di turno, il barista, no, dice, cioè, perché hai il gradino, non hai la rampa? Io mi sono sentita rispondere tante volte, ma il comune non ce la fa mettere. Non possiamo mettere la rampa perché, sai, magari occupa il marciapiede, perché ci vuole un'autorizzazione per farlo. E effettivamente, per quanto magari in certi casi poteva anche essere una scusa, però effettivamente in realtà c'è una base di verità in questo problema. Tant'è che è diventato emblematico il caso dell'altro spazio. Non so se lo conoscete, è questo bar che c'è in via Nazario Sauro che ha orientato il suo fare l'attività di bar molto ad una visione dell'inclusione lavorativa anche, quindi per un certo periodo ha avuto una barista in carrozzina, per esempio, poi normalmente cerca di assumere anche persone con disabilità e di rendersi il più accessibile possibile. Bene, in questo bar aveva un gradino all'ingresso, ovviamente prima ancora dell'apertura si sono dotati di una rampa che però non era autorizzata. E si è aperto tutto un contenzioso con il comune, nel quale adesso per carità non entro, e senza dire chi ha ragione o chi ha torto, però di fatto si sono presi una multa per aver messo una rampa, non per il fatto di non avercela. E quindi evidentemente c'era una problematica sotto, c'era qualcosa che non funzionava. E se andiamo a vedere il numero di rampe autorizzate negli ultimi anni nel centro storico di Bologna, il numero rasenta lo zero, cioè l'orientamento degli uffici comunali è stato quello di non autorizzare i negozi barra mettere rampe esterne. Questo in un'epoca in cui invece vediamo le strade invase da tavolini, Mobike e qualsiasi altra cosa ci ha fatto un po' accapponare la pelle, nel senso, ma com'è possibile che tutto si può mettere sotto un portico tranne che una rampa? Questa cosa, cioè, evidentemente qualcosa che non torna. Quindi tutta questa premessa, scusami se mi sono dilungata, però era per raccontare un po' qual era l'intento originario, quindi provare a fare un po' di ordine in questa situazione e a dare dei criteri su quali rampe si possono mettere, in quali circostanze, e quindi da un lato rendere la vita più facile agli esercenti stessi, che giustamente fanno fatica anche a assumersi responsabilità di fare cose che certo. Poi magari non vengono autorizzate, eccetera. Quindi abbiamo pensato a tutte delle modalità, che poi magari posso spiegare meglio, per facilitare chi mette una rampa, che sia una rampa interna, una rampa esterna, insomma ci sono varie soluzioni. Allo stesso tempo però abbiamo chiesto che ci sia un termine specifico entro il quale tutti i luoghi aperti al pubblico, avendo questo tipo di facilitazione, devono però adeguarsi, devono farlo, quello sforzo lì, diciamo. E quindi questo è stato un po' l'obiettivo di quello che abbiamo chiamato progetto Rampe, che nel concreto è una modifica del regolamento edilizio di Bologna. Quindi a questo regolamento è stato aggiunto, insomma, un articolo che parla del tema dell'accessibilità dei luoghi aperti al pubblico, che richiede questo adeguamento entro un termine definito e rimanda a delle linee guida, un allegato che dà tutte queste regole su quali sono i tipi di adeguamenti fattibili a seconda dei vari contesti, ovviamente prendendo anche in esame casi di esenzione da questo tipo di obbligo, cioè siamo ben consapevoli che ci sono delle situazioni in cui non è così semplice trovare la soluzione, quindi tutte le casistiche sono un po' previste ed è semplicemente richiesto di fare quello che si chiama l'accomodamento ragionevole, cioè di trovare la soluzione fattibile in quella determinata circostanza. Beh, la vostra proposta mi sembra molto, molto chiara, molto definita e precisa, e quindi mi viene spontaneo chiederti: ma a che punto siamo con questo progetto? Allora, c'è stata una fase durata direi almeno 6 mesi di concertazione tra associazioni, disability manager, uffici comunali, che devo dire è stata non priva di dialettica, ma anche molto produttiva, nel senso che da posizioni sicuramente diverse inizialmente, c'erano anche molte resistenze, insomma, ai cambiamenti, però io credo che si sia arrivati ad un livello di compromesso interessante, okay? Che chiaramente non risponde proprio a tutto quello che noi volevamo, però un buon livello di compromesso, considerata la novità e l'innovatività della proposta, che proprio oggi ha fatto il suo passaggio, è stato approvato dalla giunta comunale, oggi ha fatto il suo passaggio in commissione consiliare, e qui vi do forse una notizia in anteprima, non so, però c'è stato un piccolo intoppo, nel senso che noi abbiamo dato come termine in tutto questo lavoro, insomma, in questo documento che abbiamo scritto, abbiamo concordato di indicare che entro 12 mesi dall'entrata in vigore dovevano essere fatti questi adeguamenti, ripeto, sempre con tutte le casistiche di esenzione, tutta la gradualità possibile, negli interventi non stiamo parlando di andare a buttare giù negozi o ricostruire tutti gli ingressi, sono cose molto minimali. Quindi avevamo pensato che 12 mesi fossero più che sufficienti, mentre c'è stata una resistenza da parte di, insomma, alcuni soggetti all'interno dell'amministrazione, non tutti, però che hanno voluto estendere questo termine a 36 mesi, quindi 3 anni. Ora, considerato che si parla, per capirci, anche di mettere, non so, un raccordino lungo 50 centimetri fuori da un gradino, da una soglia bassa, ok? Mettere una rampetta fuori dalla porta, per capirci. Cose di questo tipo, secondo noi, non richiedono 3 anni, a maggior ragione in un contesto in cui nel giro di 15 giorni a tutti i negozi è stato proposto di, non so, ampliare i dehors perché non potevano più stare dentro ma dovevano stare fuori, no? Per via del Covid, cose di questo tipo. Si sono attrezzati nel giro di settimane, hanno messo in atto tutte le cose per il distanziamento, l'igienizzazione, eccetera, eccetera, e noi crediamo che anche questo cioè non possa essere rimandato alle calende greche, tanto più che non stiamo introducendo in realtà nuovi obblighi, stiamo solo chiarendo e specificando a livello comunale quanto già previsto da una normativa che esiste, quantomeno risalendo la normativa antidiscriminatoria, la legge 67 del 2006, quindi è del 2006, oggi siamo nel 2021, quindi diciamo che c'è stato del tempo per adeguarsi. Quindi ad oggi la situazione è questa, noi stiamo portando avanti una interlocuzione sulla quale devo dire che abbiamo avuto anche delle aperture da parte di una parte, insomma, dei consiglieri comunali, dell'amministrazione, per trovare una mediazione diversa, perché ci sembra che quel termine sia decisamente eccessivo e vada quantomeno graduato rispetto alle diverse situazioni, perché un conto è chiamare una ditta che ti deve fare una ristrutturazione importante, un conto però è mettere il raccordino che ti costa 100 euro e lo metti davanti al gradino e hai risolto. Quindi sono situazioni diverse, non possono esserci insomma, tempistiche così lunghe per adattamenti così ridotti. Altro punto che è rimasto un po' da discutere è poi l'aspetto effettivamente, diciamo, sanzionatorio, che non ci piace tanto, perché vorremmo che non ce ne fosse bisogno e speriamo che non ce ne sia bisogno, però sappiamo anche che per far applicare le leggi a volte è un aspetto necessario, e quindi anche su questo aspetto bisogna trovare dei meccanismi che siano davvero efficaci per evitare che anche questo regolamento rimanga poi lettera morta nel concreto. Comunque, appunto, in questi giorni si porterà avanti questa interlocuzione, io credo che si troverà qualche tipo di soluzione, speriamo, abbastanza soddisfacente, e entro luglio dovrebbe essere approvato. Bene, insomma, Ilaria, ci insomma, auguriamo che questo momento di attesa non si prolunghi ulteriormente, che il vostro progetto RAMP venga approvato in modo definitivo. Ti ringrazio per averci raccontato e parlato di accessibilità anche nella nostra città. Grazie mille, Ilaria, veramente. Grazie a voi.